La storia e la memoria di Dino Pesole. Dall'impegno nella Resistenza come staffetta partigiana alla militanza nel Partito d'Azione, militanza politica che poi troverà la sua espressione con Ferruccio Parri e Ugo La Malfa nel Partito Repubblicano. Attraverso la narrazione di episodi che attraversano in prima persona la storia del nostro paese, dagli anni durissimi della militanza antifascista fino ai giorni nostri, Gianna Radiconcini tratteggia figure e personaggi che hanno segnato le tappe principali della storia del nostro Novecento, dal fascismo alle elezioni del 48, dalla sfida al vecchio e superato testo del diritto di famiglia, che era in vigore fino al 1975, ai viaggi e all'esperienza professionale nella RAI. Il tutto è raccolto in un libro appena pubblicato da Carocci, dal titolo Memorie di una militante azionista, storia della figlia di un onesto cappellaio. Buonasera Gianna Radiconcini e benvenuta alla Storia e la Memoria. Buonasera. Ascoltiamo insieme questi passaggi tratti dal suo libro. Tutte le mie azioni, politiche e non, sono legate da un unico filo. Quel filo è il Partito d'Azione. Ha informato tutte le mie scelte, anche quelle che attengono alla mia sfera privata. Mi sono iscritta al Partito d'Azione in giovane età. Questa scelta politica era la continuazione del mio antifascismo infantile. Da bambina mi era odiosa qualsiasi cosa somigliasse a quell'ignoranza, quella grettezza che aveva attristato gli anni del fascismo. A 9 anni ero antifascista. I primi segnali di sovversione politica li manifestai raccontando barzellette. Quelle su Starace andavano per la maggiore. Nei primi anni di guerra non uscivo mai da sola. Ero la bambina di casa, pur avendo 15-16 anni. Nel 1943 la tessera dava solo diritto al pane, 100 grammi, scuri e pesanti, che formavano una sola ciriola. Fui incaricata di acquistare il cibo, e non era facile. La mia prolungata infanzia terminò con l'armistizio. Mi ritrovai adolescente, con compiti e responsabilità impreviste. Allora Gianna Radiconcini, ci racconti lei ora direttamente la sua esperienza di staffetta partigiana che viene tratteggiata in questo interessante libro. Ma io avevo questo strano sentimento, dico strano perché ero piccolissima, insomma ero piccola, avevo 9 anni e mi dichiarai formalmente antifascista alle mie compagne di scuola, che mi guardarono così con gli occhi un po' incuriositi perché non capivano neanche di che cosa stessi parlando. Io stavo in una scuola di suore dove, anche se alcune suore come la direttrice erano molto fasciste, perché era la cugina di Starace, il segretario del partito fascista, però tutto il regime ci arrivava, l'eco del regime ci arrivava un po' attutito, quindi le mie compagne a quell'età, anche era normale, non erano particolarmente interessate alla politica. Io però sì, perché trovavo che i fascisti erano insopportabili, forse perché erano troppo autoritari, come lo era la mia direttrice. Sulla base di questo, mano a mano, questo che era un sentimento e non certo un pensiero politico, io poi crebbi e quando ebbi 17 anni, attraverso un'altra compagna di scuola, sempre delle ragazze della scuola delle monache, fui invitata, se volevo, a partecipare alla Resistenza. Io dissi subito di sì e cominciammo a frequentare delle cape. La mia prima capa era una persona non molto ignota, era la mia professoressa di greco dell'anno precedente, quindi il nostro anonimato non restò a lungo tale. E poi dopo avevamo rapporti anche con un'altra capa che era, anche lei mi era notizia perché era la sorella di un amico di mio fratello e per giunta io avevo preso lezioni di matematica sua sorella, quindi sapevo tutto, insomma era un mondo in cui si era in pochi, si era poco anonimi e allora l'anonimato invece era molto importante. Questa è la storia della figlia di un onesto cappellaio, allora ci spieghi un po' ai nostri ascoltatori in che senso la storia di un cappellaio. Beh, io sono la figlia di un cappellaio, che è una cosa abbastanza strana perché in effetti i cappellai erano pochissimi, adesso non ci sono proprio più, quindi già mi sembrava buffo essere tale. La mia famiglia è sempre stata, ha prodotto cappelli fin dal 1785, poi ora recentemente ha smesso. Io, questo, però questo titolo così, un po' buffo secondo me, che non era adattissimo a un libro di storia, come invece è situato in una collana storica, è stato messo come secondo titolo, come sottotitolo. Sì. La frase nasce da una frase di mio fratello Silvio, che era un personaggio abbastanza particolare, molto così, molto originale, spassoso e anche molto colto, eccetera, tagliente come persona. E a un certo momento, quando era un ragazzino, cioè aveva 17-18 anni, andò a ballare a casa di una ragazza che poi diventò, alcuni anni successivi, diventò sua moglie. La madre di questa ragazza, che era una borghese molto bene, abitava in Piazza di Spagna, sulla scalinata, eccetera, in questa festa, in abito da sera, vide questo ragazzino mai conosciuto prima. Allora gli si avvicinò e a bruciapelo gli chiese: Gianotto, lei di che figlio? Lui la guardò con aria scanzonata e disse: sono il figlio di un onesto cappellaio. Da qui il titolo del libro. Da qui viene fuori il titolo. Ecco, ma come giunse alla determinazione della militanza nel Partito d'Azione? Ma io ho militato all'inizio con i comunisti, però io sapevo in un modo vago, perché le mie idee politiche erano confuse e perché ero giovane, perché sotto il fascismo non era facile chiarirsi, però avevo abbastanza chiara un'idea, che io non ero comunista, io ero una liberale, diciamo una liberale di sinistra in senso lato. E quindi all'inizio io ho militato nelle file del Partito Comunista come staffetta partigiana, però appena finita l'occupazione a Roma e sono arrivati gli alleati, io ho declinato l'invito ad avere l'offerta di avere la tessera del Partito Comunista, che era un onore all'epoca, solo perché non avevo niente contro il Partito Comunista, ma io non ero comunista. E subito dopo mi andai a iscrivere al Partito d'Azione, cominciai a leggere il giornale, capii che ero molto più adatta a quel partito e mi iscrissi. Rimasi in quel partito circa un anno, dopodiché nel famoso congresso di Via Bari, in cui purtroppo il partito si spaccò e io fui una delle piccole cause, insomma, piccoli gregari che andarono via dal Partito d'Azione per seguendo la Malfa e Parri, che formarono immediatamente Partito Repubblicano, il Movimento della Democrazia Repubblicana. Ah, ecco, sì. E quello è stato il passaggio, e poi dopo, siccome i voti che avevamo preso non erano significativi, aderimmo non in moltissimi al Partito Repubblicano. Molto interessante, Gianna Radiconcini, nel libro il suo rapporto con Oronzo Reale, che poi è famoso in Italia per le leggi cosiddette Reale, che furono leggi liberticide. In realtà lui è il padre del nuovo diritto di famiglia. Sì, lui mi ricordo che quando era molto vecchio, non era già più neanche giudice costituzionale, diceva con aria molto triste, dice: se mi si ricorderà per una legge liberticida e non per la mia vera legge, che è la legge sul diritto di famiglia. E lui effettivamente ha dato forma giuridica a quel voto che il Parlamento italiano dette, certo, circa la necessità di limitare alcune libertà dovute al terrorismo certo, che era imperante, e gli ha dato forma. Ma subito prima, perché infatti la legge porta immediatamente precedente, aveva depositato in Parlamento la riforma del diritto di famiglia. Che è la riforma più importante, certo. Tra l'altro, in un'inchiesta che fu fatta dal Parlamento europeo alcuni anni dopo, risultò con grande stupore dei parlamentari e anche dei giornalisti che il diritto di famiglia più aggiornato, più moderno, più bello, diciamo, era quello italiano. Sì. Io ricordo, siccome a quell'epoca io lavoravo molto per la RAI nella sala stampa del Parlamento europeo, mi ricordo ancora le facce stupite dei miei colleghi e delle deputate, che veramente non si potevano immaginare, nessuno poteva immaginare che il più moderno e avanzato diritto di famiglia fosse quello degli italiani. Ecco, vorrei dedicare quest'ultimo minuto che ci resta a una riflessione insieme che emerge nettamente dal suo libro sulla qualità, la forza morale di questi personaggi che, come dire, stride molto con il personale politico di oggi. Sì, io ho scritto questo libro esattamente per questo motivo, perché io soffro di un rimpianto perenne di quel degli uomini e delle donne di quel periodo, che erano veramente molto diversi dalle attuali. Io mi ricordo le lotte che si facevano nei partiti, erano anche lotte forti, certo, drammatiche, con colpi anche robusti, inferti da un avversario ad un altro, ma mai io ho sentito in queste azioni la spinta verso una poltrona e ancor meno verso dei quattrini. Ci si batteva per delle idee, per far approvare certe idee di riforma, di impostazione delle istituzioni in un certo modo. Era un momento abbastanza eccezionale e devo dire lo rimpiango molto. Ma quello che è successo dopo, questo appiattimento della politica sulla convenienza personale, io non la sentivo mai. Era una vita politica profondamente diversa. Ed è proprio questo lo scopo, allora lo ricordiamo ancora nel ringraziare Gianna Di Concini di questo bel libro, Memorie di una militante azionista, storia della figlia di un onesto cappellaio. Grazie, molte grazie per essere stata con noi. Grazie a voi.